Le cose importanti le decido anch'io, non è che le decide solo lei, però. Lo so, ma intanto la Per esempio, è importante che lei abbia partecipato solo al 9% delle votazioni in Parlamento. Sì, perché le votazioni, mi dispiace per quello che lei pensa, forse. 91% di assenze, 91% di assenze. Non influisce per niente sui lavori parlamentari. Ma che significa? Questo l'autorizza a non essere presente in Parlamento? No, come non significa niente? Allora lei mi dice che non significa niente se la mia votazione non influisce o meno. Ma scusi, lei ci dovrebbe essere in Parlamento, lei ci dovrebbe essere in Parlamento, a prescindere dal fatto che sia importante o no. Ma qui sì, c'è un meccanismo parlamentare da parte di nominati che... Ma anche lei è nominato, si dimetta se non le va bene. Io sono nominato, è chiaro che sono nominato. E si dimetta se non le va bene, si dimetta. Parliamo di legge elettorale e io dico che voterò una legge elettorale che sia a misura di democrazia. Scusi, Gaglione, perché lei non ci va in Parlamento? Perché ha da fare, una volta mi disse io faccio il medico, faccio il medico. Io non vado in Parlamento sino a quando i meccanismi parlamentari rendono inutile il voto di un parlamentare. Vabbè, ma Luca, così è troppo comodo. Uno non va in Parlamento finché i meccanismi parlamentari non sono... Telese. È troppo comodo polemizzare, scusi, Gaglione, inutile. Scusi un momento. Stavamo parlando di un... Un attimo, Gaglione, un secondo, Gaglione. No, guardi, stavamo parlando di un tema che è quello della campagna qui. Un attimo, Gaglione, un secondo. Si fermi, credo si che lei non voglia sottrarsi, credo che lei sia una persona onesta. Ma cosa c'entra il fatto... che uno non è influente, può non essere influente, o il fatto che lei percepisce uno stipendio serata, e non si presenta sul posto di lavoro. Le posso chiedere, come ha detto Telese, perché lei non va in Parlamento pur prendendo lo stipendio? Glielo posso chiedere o no? Non ho detto che non vado in Parlamento. Beh, 91% di assenze. Dopo un 10% di presenze. 10%. Voto non influiva per niente sulle decisioni. E qualsiasi proposta, io glielo assicuro. Ma che significa? Lei deve avere un disagio, se no non griderebbe così. Questo deve avere un senso del pudore, se no non griderebbe così. Deve un po' vergognarsi, se no non griderebbe così. E io l'apprezzo per questa vergogna. Io non mi vergogno, guardi. Sì, perché lei prende uno stipendio e non va a lavorare. Poi dice, però faccio il 10% di presenze. E caro onorevole Gaglione, tra il 90% di quelli che ci seguono dicono, ma questo è pazzo.